da lì sta che cerca di coniugare la passione dei militanti con il rigore professionale. Penso che questa caratteristica sia dovuta anche alle caratteristiche di chi materialmente l'ha realizzata nel corso del tempo la realizza, perché in gran parte si tratta di studenti, soprattutto negli ultimi anni, di dottorandi, di persone in qualche modo precarie nel mondo universitario, quindi persone che uniscono le competenze alla passione dei militanti, degli attivisti. E ricordo che una rivista è nata all'inizio degli anni 2000 e, come sappiamo, è il periodo delle grandi manifestazioni di Seattle prima, poi di Nizza, di Praga fino a Genova. E quindi è nato un po' con questo spirito militante da parte di persone che, inquadrate in qualche modo, soprattutto in modo precario all'università, volevano dedicare le proprie competenze a temi, insomma, che li appassionavano. Questa è un po', insomma, la genesi della rivista, una rivista che, come dicevo prima, è abbastanza unica nel panorama italiano, non solo italiano, perché è una rivista fatta, insomma, senza mezzi, senza sponsor, e per adesso, insomma, si è riuscita ad uscire 15 anni ininterrottamente e abbastanza con regolarità. Ecco, questo numero è dedicato a un argomento che è di quelli che di prima acchito si potrebbe dire, ma c'entra a un certo punto con la storia, la logistica. La logistica, invece, adesso poi i curatori e gli autori degli articoli ci spiegheranno un po' perché hanno deciso di dedicare il numero della logistica, perché dovete sapere che ogni numero della rivista viene proposto all'assemblea dei soci dell'associazione che ha per scopo istituzionale di editare la rivista, viene proposto l'argomento all'assemblea annuale e da parte di chi propone, poi dopo viene discusso, viene votato e le decisioni approvate vengono poi, insomma, realizzate, si concretizzano in numeri della rivista. E qui abbiamo, insomma, due curatori, coloro che hanno pensato di proporre questo argomento all'associazione e hanno proposto, l'argomento è, insomma, piaciuto, sono stati convincenti evidentemente e si è deciso di realizzare questo numero sulla logistica. Quindi io darei la parola direttamente a voi e vi chiederei innanzitutto di spiegare un po', insomma, che obiettivi avete voluto realizzare con questo numero e che cosa ne viene fuori. Dall'ottica della logistica, che cosa di nuovo, di originale si può dire sul conflitto sociale e la logistica? Chi vuole iniziare? Grazie innanzitutto dell'invito e alcune parole un po' per appunto introdurre questo numero dicendo che ha, diciamo così, una genesi, una genealogia chiaramente iscritta in un percorso di lotte, di conflitti e di auto-organizzazione dei quali diciamo, sono stati in qualche modo co-partecipi. Se vogliamo, diciamo così, un po' in maniera enfatica dirla, diciamo, questo numero è radicato in una serie di esperienze che come compagni abbiamo vissuto negli ultimi 6, 7, 8 anni, in particolare a partire da, diciamo, soprattutto da Emilia Romagna. Vi do un po' di immagini anche per, diciamo, giocare un po' con le immagini che stanno alle nostre spalle. È un numero che nasce quando nel 2011 ci troviamo a Piacenza, nella provincia di Piacenza, in un magazzino di Ikea, che non è appunto la sede di Ikea, non è il luogo che più o meno conosciamo tutti, no, è proprio il magazzino, quindi quello dove le merci vengono stipate, e ci troviamo uno sciopero in questo magazzino, in questa diciamo, dove sfuma la città, inizia la campagna, in questa zona diciamo, di campagna urbanizzata, in un picchetto molto duro tra lacrimogeni e cariche della polizia, e iniziamo a scoprire questo mondo, iniziamo a scoprire che in qualche modo quei quei mobili, quei vari oggetti che in qualche modo si acquistano spesso appunto senza storia, nella nostra mente senza storia, in realtà hanno una lunga storia, vengono prodotte da qualche parte, spostate da un'altra, immagazzinati da un'altra parte. Questo numero ha una sua genealogia dentro i picchetti a Granaroro, dentro i picchetti all'Interporto di Bologna. Anche lì ci siamo trovati in scioperi, picchetti, manifestazioni che in qualche modo portavano in luce una storia lunga di queste merci, delle merci che oggi ci vengono anche consegnate direttamente a casa, in quella che chiamiamo la nuova logistica metropolitana, Amazon soprattutto come esempio emblematico. Ecco, di queste merci che spesso hanno quasi un, come dire, un alone un po' magico, nel senso che appunto non si sa bene come ci arrivano, come arrivano al momento del consumo, o ancora la storia di questi di questo numero può essere radicato in tanti altri picchetti e scioperi che abbiamo visto in filiere di supermercati, in filiere produttive molto, molto diversificate, che appunto ci hanno fatto scoprire una serie di luoghi, una serie di soggetti che fino a prima non conoscevamo. E l'idea appunto, quando siamo arrivati in questi luoghi, è stata iniziare a porsi semplicemente le domande, delle domande militanti, delle domande politiche, quindi come questa composizione che praticava queste forme di lotta, una composizione soprattutto migrante, come era arrivata lì, perché era arrivata lì, perché si stava mettendo in gioco, ma anche appunto progressivamente abbiamo in qualche modo ampliato, diciamo, il riquadro. Abbiamo iniziato a chiederci, ok, ma questo che vediamo, credo che in questo, diciamo, luogo magari un minimo della lotta logistica sconosciuta, e quindi magari dopo per scontate certe cose, però l'idea è stata proprio quella di dire, ok, iniziamo a domandarci la lunga storia, i lunghi percorsi geografici che hanno portato a questi picchetti, a queste lotte qui, qui e ora. La logistica in qualche modo è questo, la logistica è questa grande scienza capitalistica della connessione, questa grande scienza capitalistica che consente il just in time and to the point, che consente appunto che ha questo sogno logistico del subito portare, come se spazio e tempo fossero annullati, dalla produzione al consumo senza nessuno stacco, senza che in mezzo appunto al momento della produzione e quello del consumo ci sia nessuna interruzione. E quindi abbiamo iniziato a costruire queste grandi filiere, ripeto, di merci, quindi molto concretamente logistica è iniziare a mappare come il telefono che ci abbiamo in tasca viene prodotto, il che vuol dire materie prime in Africa, vuol dire estratte in Africa, assemblate in Bangladesh, spostate per grandi navi porta container negli Stati Uniti, poi portate a Bruxelles, poi portate nelle nostre tasche a Bologna tramite vari magazzini. Ma logistica è anche una grande connessione di forza lavoro, estremamente eterogenea, è il minatore, è il facchino, è il rider che ti porta a casa l'oggetto. In qualche modo quello che abbiamo provato a fare quindi con questo numero è il tentare di rendere questa complessità, questo mondo ampio che abbiamo, come dire, visto esploderci in mano a partire da questi picchetti, da queste lotte, e provare a dare una prima mappatura, una prima idea di cosa può essere logistica. La logistica come disciplina, diciamo, fino a 10 anni fa era sostanzialmente un ambito relegato, diciamo così, alle scienze manageriali, alle scienze ingegneristiche. Negli ultimi anni, sotto la spinta in qualche modo di queste lotte, di questi conflitti, è sempre più diventata invece in qualche modo una lente, un punto di osservazione anche per molte scienze sociali. All'interno di questo numero, non a caso, si trova una prospettiva storica, si trova una prospettiva sociologica, una prospettiva antropologica, sulla logistica. La logistica in qualche modo come lente, come punto di vista, come sguardo, in grado di informare da un punto di vista critico di, diciamo così, il capitalismo contemporaneo. Questo appunto è un po', diciamo così, la storia del numero e uno dei suoi obiettivi, nel senso di cercare di dare conto di questa galassia di produzione, di forza lavoro, di consumo di merci del mondo attuale. Uno dei, così, diciamo così, dei temi, delle ambizioni che aveva questo numero era proprio quindi quello di provare a rendere, di provare a ricostruire questa traiettoria, quindi uno sguardo militante, uno sguardo politico che a partire da questa serie di mobilitazioni nel mondo della logistica potesse per diciamo, successivi ampliamenti di orizzonte rendere appunto questo questa ricostruzione ampia, questo disegno molto più variegato. Chiudo perché insomma davvero due parole, per magari insomma, se c'è tempo per fare un po' di discussione approfondiamo alcuni nodi, tornando un po' sul, diciamo così, sul locale. Quando abbiamo iniziato a partecipare a queste lotte, a questi conflitti a Bologna, ci siamo immediatamente resi conto di come si stesse toccando un nodo scoperto, un punto critico. Citavo prima la lotta alla Granarolo 2014, diciamo 2013-2014, quando Granarolo, appunto questa multinazionale che distribuisce il latte sui giornali, non so per chi si ricorda, in quei giorni durante quegli scioperi si parlava di sciopero del cappuccino, perché chiaramente bloccare uno dei punti di distribuzione del latte a catena, a cascata, tra virgolette, impedisce ai bar di fare il cappuccino, perché appunto come dire, quello sciopero, quel tipo di divertenza aveva fatto in modo che durante gli scioperi si schierassero contro gli scioperanti tutta una serie di soggetti, i sindacati confederali, il comune, le associazioni, il governo, e in qualche modo quindi si era creata questa frattura molto evidente. Da un lato i lavoratori della logistica, appunto in quel caso la distribuzione del latte, e dall'altro appunto questo fronte. Questo fronte di poteri che appunto era creato in qualche modo questo schieramento, queste due parti in lotta. Quindi una dimensione molto politica che ci aveva immediatamente, come dire, fatto rendere conto anche della potenza di queste lotte. Ci aveva fatto rendere conto di come la logistica sia in qualche modo un nodo. Un terreno scoperto per le controparti, in senso anche, diciamo così, in termini capitalistici siamo molto scoperto, e mi spiego. Da un lato è l'elemento strategico, nell'economia globale contemporanea la logistica è il terreno strategico, ossia riuscire a movimentare nel modo più veloce possibile, nel tempo più lungo possibile, una merce dall'assemblaggio che citavo prima, magari dell'iPhone in Cina, al fatto che io lo posso comprare all'Apple Store di Rizzoli, ecco, più riesci a ridurre quel tempo lì, più la tua ditta, diciamo così, fa profitto in fretta e più è più potente, quindi da questo punto di vista è strategico, ma strategico anche dal punto di vista delle lotte, perché il potere di interruzione che si dà dentro questa grande catena globale è davvero significativo. Riuscire a inceppare quel meccanismo lì, dal punto di vista della forza lavoro, ha, come dire, un potere di posizione dentro la catena estremamente ampio. E ripeto, gli esempi di lotta che facevo prima, ce ne sono tanti altri, ci hanno dimostrato in qualche modo in maniera molto tangibile. Bloccare la catena della distribuzione fa male. Bloccare la catena della distribuzione crea potere dal punto di vista della forza lavoro, e in qualche modo è qualcosa di a suo modo inedito. Se si era abituati tendenzialmente, storicamente, a pensare il conflitto capitale lavoro soprattutto a partire dal punto di vista della produzione, quindi il conflitto capitale lavoro pensato, diciamo così, semplificando, dentro la fabbrica, dentro il luogo produttivo, ecco, queste lotte logistiche ci hanno fatto capire che forse ci sono altre possibilità oggi, non evidentemente in contrapposizione alla produzione in senso più classico, ma ecco, oggi il sistema capitalistico globale, il sistema di produzione, le catene del valore globali aprono nuovi fronti, e da questo punto di vista la logistica può essere uno dei nodi, non è evidentemente l'unico, ma uno dei nodi sui quali sperimentare inchiesta, sperimentare organizzazione, sperimentare una nuova forma, diciamo così, anche di classe, uno dei dei credo pregi che in qualche modo hanno avuto la lotta logistica, quello, è stato quello di riportare il tema lotta di classe come qualcosa di attuale. Ecco, questo è un altro contributo che in qualche modo le lotte alla logistica hanno dato negli ultimi anni, che abbiamo provato a sintetizzare in questo numero. E questo dovrebbe essere giusto un po' di spunti politici, teorici, che abbiamo provato a mettere in questo numero di Zapruder, e passo la parola a Mattia. Sì, mi accodo ovviamente ai ringraziamenti anch'io dell'invito a Fabrizio per aver organizzato, insomma, la serata e la presentazione. Niccolò ha già detto molte buone cose, quindi io magari vado più, diciamo, su fare una panoramica del numero, che è, come ha già detto appunto Fabrizio, un numero interamente dedicato alla logistica, diciamo, in tutte le sue rubriche. No, Zapruder è una rivista che si struttura in diverse rubriche che in qualche modo vogliono, vuol dire, analizzare da diverse prospettive il tema, diciamo, monografico che è descritto in copertina. E appunto un numero interamente dedicato alla logistica che ci sembra, come dire, assolva alla funzione di dare una fotografia abbastanza, come dire, chiara, ci sembra, del dibattito che si è sviluppato attorno alla logistica, sia da un punto di vista accademico, sia da un punto di vista appunto dei movimenti, delle lotte, perché appunto da lì siamo partiti, dalle lotte siamo partiti per conoscere la logistica e per in qualche modo interpretarla. E quindi, diciamo, al di là degli articoli di Michele, di cui parlerà lui, sulla logistica della nuova Via della Seta, che questo è un mega progetto infrastrutturale di cui appunto avrete già sentito parlare, di cui parlerà Michele, e al di là della logistica a scuola, di cui parlerà Sandro, del suo tentativo di come dire, rendere la logistica un qualcosa che già fin dalle superiori può essere in qualche modo utilizzato e così, come dire, insegnato per interpretare anche un po' il mondo di oggi, insomma, dare uno strumento critico già fin da quell'età. E così, una panoramica non ovviamente totalmente esaustiva, ma generale del numero, inizia con l'articolo di Giorgio Grappi, che in realtà ha avuto il merito di reintrodurre in qualche modo il dibattito sulla logistica in Italia con un libro pubblicando un libro che si intitola appunto Logistica del 2016, e su questo numero parla di Hyperloop, non so ancora bene come si pronuncia, insomma, comunque di questa nuova idea, di questo nuovo progetto, in realtà costruire questi enormi tunnel che collegano, e sono già in fase di test, diciamo, quindi è un progetto abbastanza avanzato, che collegano vari diversi punti. In particolare adesso si stanno sviluppando appunto i test ad Abu Dhabi o nel deserto di Las Vegas, però appunto sono questi enormi tubi un po' alla Futurama, dove all'interno invece che le persone viaggiano i container. Quindi, a proposito appunto dell'immaginario logistico, in realtà il container lo richiude abbastanza, come dire, in maniera esemplificativa. Ecco, sono questi, in questo articolo Giorgio parla di questi progetti, di come in qualche modo scardino anche un po' gli spazi, i confini, i territori che sono politicamente definiti da delle linee, no? Immaginarie, tracciate sulla mappa. Ecco, questi tunnel vorrebbero in qualche modo unire e creare degli spazi lisci attraverso cui le merci ovviamente possono scorrere. Un altro articolo che è la parte, diciamo, più che definisce più il numero, che sono i primi tre articoli, che sono appunto gli zoom. Un altro articolo è quello di Maurilio Pirone, che parla invece delle lotte dei riders, appunto Nicolò ha già detto della nuova logistica metropolitana, quindi di come anche le lotte si siano sviluppate all'interno dei gruppi di lavoratori e lavoratrici che sono sostanzialmente, che lavorano per Deliveroo, per Just Eat, per le varie piattaforme di consegna del cibo, che insomma sono ovunque attorno a noi, diciamo, si producono anche a Bologna in varie città italiane, non solo, e quindi ora vi provo a parlare di, diciamo, di come queste lotte si siano sviluppate, di come si sia creata una sorta di soggettività anche all'interno di questi facchini e di questi di coloro che consegnano, appunto, ci consegnano il cibo e la, la sera o la pranzo. Poi ci sono degli articoli che vanno invece più su luoghi classici della logistica, quale ad esempio un articolo di Andrea Bottalico che parla del, del porto di Genova, quindi un luogo storicamente classico della, della logistica, e ne parla sia da una prospettiva attuale, quindi delle lotte che sono sviluppate negli ultimi anni, sia da una prospettiva storica, dove, diciamo, sottolinea e evidenzia come in realtà nel, nel porto di Genova, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che trasportavano materie prime come il carbone, si siano sviluppate delle lotte tra i cosiddetti carbonai che già all'inizio del Novecento mettevano un po', hanno contribuito anche a mettere in crisi anche i governi, diciamo, attraverso le loro lotte. E un altro articolo interessante è di Francesco Marullo che, diciamo, sviluppa, come dire, una riflessione su un, su un murales, il murales di Diego Rivera, che è, diciamo, come dire, sulle mura della fabbrica del General Motors di Detroit, e quindi che descrive un po' la catena logistica di quella fabbrica e, diciamo, attraverso un po' i significati espliciti e meno espliciti di quel murales. Ci sono poi, c'è poi un testo di Carlotta Benvenu che parla un po' delle trasformazioni di Parigi condizionate dalla logistica, quindi, diciamo, il suo focus è sulla, sullo sviluppo urbano di Parigi, che Parigi ha subito negli ultimi 20 anni, e di come, diciamo, la logistica dei magazzini in qualche modo abbia anche come dire, modificato la, l'urbano la struttura urbana e dei flussi che attraversavano, appunto, Parigi, che attraversano Parigi tuttora. Rapidamente ci sono le fotografie di Michele Labini, di cui dopo parlerà direttamente lui, che stanno scorrendo dietro le nostre spalle e che si sono riferite alle lotte della logistica della cosiddetta Valle del Po negli ultimi 7-8 anni e che quindi vanno un po' a imprimere sulla... sulla pellicola no, insomma, sull'USB o sul sensore diciamo, la parte, come dire, viva delle lotte della logistica. Altri come dire, interventi interessanti sono di Gabriella Cioce, che sta facendo un progetto di ricerca sui SICOVAS in Emilia-Romagna, e si pone un po' in dialogo questo intervento con l'intervento di Fulvio Massarelli, che è stato uno dei primi a scrivere e a pubblicare un testo proprio sulle lotte della logistica nell'Emilia Romagna, e un testo che si intitola Scarichiamo i patroni, che parte proprio dalle lotte che si sono sviluppate soprattutto a Bologna, ma in tutta la, insomma, tutta la pianura, e che hanno come dire, definito e caratterizzato gli anni, appunto, tra il 2000 e dal 2008 in avanti. Senza passare, appunto, tutti gli articoli che ci sono del numero, anche perché devono parlare ancora per loro due, quindi anche Michele, quindi senza presentare proprio qualcosa, vado sull'ultima cosa che volevo dire, cioè ci sono 3 interviste all'interno del numero. La prima è a Sandro Mezzadro e Manuela Boiazide, credo che qua che parla di logistica e migrazioni. Sandro e Manuela hanno una collaborazione di lungo corso, sia accademica sia militante, in un canale attacco, in un Valentino Border, e diciamo, loro utilizzano e ci descrivono, perché le interviste le hanno fatte tutte io e Nicolò, ci descrivono come la logistica venga da loro utilizzata quale chiave d'accesso un po' all'interpretazione delle migrazioni contemporanee, in qualche modo. E quindi, insomma, diciamo, di come, come dire, la logistica, la logica del capitale agisca anche in canalare delle migrazioni, quindi richiede con la richiesta di forza lavoro che che in qualche modo da una parte serve estrarla per riportarla da in un altro luogo dove in qualche modo è necessaria e richiesta, e quindi diciamo descrivono un po' questi movimenti. E a proposito di lavoro, un'altra intervista che ci tenevamo molto che fosse questo numero e alla fine lo siamo riusciti è a Sergio Bologna, che è, come molti magari sapranno, è uno storico militante del movimento dell'operaismo anche italiano, e che negli anni 60-70, con diciamo, una grande carica anticipatrice, ha in qualche modo introdotto il tema della logistica in riviste come Primo Maggio e con numeri speciali anche di Primo Maggio, dove fin dagli anni 70 in qualche modo faceva quello che noi abbiamo provato oggi a fare anche con questo numero, quindi utilizzare la logistica per in qualche modo interpretare e descrivere il capitalismo contemporaneo. L'ultima cosa, poi passo la parola, è appunto un'intervista a Stefano Arni, a proposito di quello che chiedeva Billy, di Fabrizio Billy, quindi di logistica e storia, e con questa intervista Arni tenta, un po' guidato da noi, anche di scardinare quella interpretazione che vede la logistica come qualcosa di, come dire, di importante, di preponderante quasi all'interno del capitalismo contemporaneo solo a partire dagli anni 60 in avanti, quindi dalla cosiddetta logistics revolution, e da quando, da allora, la logistica è diventata parte integrante, diciamo, del processo di produzione. Ecco, con questo, con questa intervista si tenta un po' di scardinare questa visione a tratti troppo spesso, insomma, monolitica, e quindi di reinterpretare un po' anche la storia della logistica a partire fin dagli esordi della modernità, diciamo, da quando con la triangolazione atlantica e la tratta degli schiavi attraverso l'Atlantico, diciamo, attraverso dei veri e propri metodi logistici, la merce trattata, diciamo, non era una merce inanimata, ma erano appunto degli esseri umani che venivano trasportati da una parte all'altra attraverso l'Atlantico per esigenze, diciamo, di forza lavoro, e quindi di estrapolare una parte di forza lavoro per portarli in un altro luogo, in qualche modo tentando di desoggettivizzarle, di creare dei soggetti inermi. Ecco, in realtà la storia ci ha insegnato che non è andata fortunatamente così, le lotte della logistica, intese in senso ampio, si sono sviluppate fin da allora, con le varie ribellioni che ci sono state e insomma, sfortunatamente spesso positive, e quindi con questa intervista si è tentato un po' di dare, come dire, valore anche a quell'aspetto logistico, proprio per dire, e chiudo, che diciamo, non intendiamo come logistica soltanto l'idea manageriale attraverso cui si tende a, diciamo, abbattere i costi di spostamento di una merce da un punto A al punto B, ma è qualcosa di molto più ampio che in questo numero abbiamo, come dire, tentato di sviluppare anche dal punto di vista storico, oltre che di tante. Grazie. Faccio una breve incursione riguardo appunto le foto che vedete qua dietro, che fanno parte della sezione fotografica di questo numero di Zapruder. Quando me l'hanno chiesto sono stato ben felice, all'inizio ero un po' spaesato perché ho detto ok, la logistica, aspetta, come posso fare a... Poi ho pensato semplicemente che rappresentare tutte le lotte hanno fatto coloro che sono invisibili, perché di fatto lo sono, fino a che non sono andato la prima volta all'Interporto a vedere un blocco e a fotografarli, non mi ero reso conto di chi realmente stava dietro alla logistica delle merci, a chi ci faceva arrivare i pacchetti a casa, a chi movimentava le merci per farle arrivare nei vari centri commerciali o nei punti di vendita. La prima volta sono arrivato all'Interporto e c'era un blocco, dopo aver superato i chilometri di camion fermi, ho visto un bel po' di gente, una composizione, diciamo, molto molto migrante, con una determinazione che fino a quel fino a quel momento lì avevo visto veramente poche volte nelle piazze, fotografando un sacco di volte movimenti studenteschi anche durante l'onda in cui il movimento studentesco, diciamo, era preso bene, c'era cioè la carica, però nel momento ho visto i facchini ho detto ok, allora non ho visto un cazzo fino ad ora, perché cioè, quando fotografavo le manifestazioni agli occhi dei facchini c'era una carica incredibile, c'era una determinazione tale che io mi divertivo un sacco, cioè, da fotografo ovviamente è una situazione di merda, perché se blocchi un interporto o fai un blocco alla Coppa Adriatica vuol dire che comunque stai rischiando il posto di lavoro, stai lottando contro le condizioni di lavoro che sono indegne, però da fotografo è un ragionamento che mi veniva abbastanza naturale, che era veramente un divertimento per me. Un divertimento in senso positivo, perché riuscivo a testimoniare un qualcosa che finalmente vedevo anche con gli occhi, non solo la macchina fotografica, ovvero un movimento di lavoratori e lavoratrici che ci metteva veramente tanto nelle azioni di protesta, nei blocchi e nelle rivendicazioni. E questo lo si vedeva sia davanti ai magazzini sperduti nelle periferie delle città, sia quando ovviamente i facchini venivano anche in città a manifestare, quindi molte foto anche sono di manifestazioni fatte qua a Bologna, soprattutto dopo la questione della Granarolo. E quello era, cioè, è stato uno dei primi, non dei primi, però uno dei movimenti di protesta che mi ha colpito molto da un punto di vista sia umano, sia politico, sia fotografico, perché la forza che c'è, sono contenibili, non riesci, i cordoni loro non tengono neanche i cordoni loro, cioè davanti allo striscione ci sarà sempre gente perché sono super carichi, perché c'è proprio una, è come se si manifestasse noi a 12 anni, però con una consapevolezza da 40 o 30, 50, però con una carica genuina e bella che, cioè, veramente mi dava molto gusto documentare e ritrarre, perché era proprio una testimonianza di una, cioè mi sembrava di tornare ogni volta nelle foto che vedevo sempre degli anni 70, negli anni, cioè, dei movimenti operai, quelli belli incazzosi eccetera, e invece no, ce l'avevo davanti, era, e la città comunque quando passava un corteo non ci credeva, cioè non capiva se era una roba festosa o meno, perché era, cioè, anche i cortei non erano tutti come spesso magari siamo andati a vedere i cortei un po' nostri, tutti brutti, neri, incazzosi, erano proprio carichi, però quella carica lì era piena di rivendicazione politica, di consapevolezza e di una lotta che per loro era già, comunque il lavoro nella logistica è un lavoro molto duro e la rivendicazione era altrettanto dura, le manifestazioni venivano fatte e gli atteggiamenti politici erano veramente duri. Però allo stesso tempo erano belli, cioè, forse è perché proprio erano duri e perché erano belli. E quindi quando mi hanno chiesto di partecipare, insomma, di occuparmi della sezione fotografica, ho detto ben venga, perché questa è una mobilitazione appunto che per me erano fino a poco prima degli invisibili, delle persone che non sapevo neanche l'esistenza. E che appunto attraverso la lotta e le rivendicazioni hanno fatto sì che sia io sia appunto chi ha potuto vedere le foto o ha letto gli articoli o comunque ha assistito a delle manifestazioni ha capito che dietro, insomma, la logistica delle merci ci sono gli esseri umani, dei lavoratori e delle persone che comunque si stanno facendo delle gran battaglie sui vari posti di lavoro. Aggiungo qualche parola anch'io, mi ringrazio anche per l'invito a questa presentazione. Insomma, volevo entrare magari un po' più nello specifico, appunto non essendo uno dei curatori, ma avendo scritto uno degli articoli per questo numero, su alcuni dei temi che ritengo poi anche essere importanti all'interno di quello che sono stati anche i discorsi già fatti, ovvero di quello che in termini generali anche quello che può essere definito il potere logistico e come la logistica è diventata anche un meccanismo di organizzazione del mondo e quindi di fatto anche un elemento di potere, no? Che descrive anche quelli che sono gli equilibri, i rapporti di forza in questo momento. Quando mi è stato anche chiesto di scrivere questo articolo sul tema appunto delle vie della seta, delle nuove vie della seta, ovvero di questo programma enorme di sviluppo infrastrutturale con fondi cinesi in termini globali, che appunto è un po' la cifra dell'ultima fase di espansione cinese in questo mondo sempre più globale, appunto mi è stato anche chiesto di inserire all'interno di questo articolo comunque di dialogare con quella dimensione storica. Io non ho studiato storia, ho studiato più relazioni internazionali, però la cosa mi è molto stata utile, molto servita, perché comunque anche aver comparato un po', come provo a fare nell'articolo, quello che è il vecchio itinerario delle vie della seta, no? Come si è sviluppato nel corso dell'antichità, con invece quello che è il nuovo progetto lanciato dalla Cina, mi ha fatto notare come appunto ci sono tutta una serie di invarianti che di fatto da ormai più di 2000 anni poi penso che possano essere appunto considerate come anche elementi fondanti di quella che è l'organizzazione logistica. Queste invarianti, appunto, oltre alla questione del commercio, della logistica come organizzazione dei flussi commerciali, riguardano temi come la questione della guerra, quindi la questione militare, e la questione delle migrazioni, che sono due temi che poi sono affrontati in maniera molto ampia nel numero, poi Mattia ne discuteva, però rispetto a questo magari aggiungo anche un paio di cose, sia per quanto riguarda la vecchia via della seta, da serie delle nuove, comunque la questione della guerra è un elemento cruciale, nel senso che proprio la, ovviamente, costituzione di quelli che sono i vari presidi di frontiera, che sono le varie città che diventavano poi centri di questa organizzazione che portava le merci, appunto, e non solo le merci, anche il fatto poi idee, anche persone da quello che è l'Europa fino alla Cina, di fatto sono state conquistate, sono solidificati nel tempo attraverso una serie di conflitti molto, molto potenti che riguardavano appunto da un lato elementi tribali, ma dall'altro anche poi tutta la formazione di quelli che erano gli stati, diciamo le organizzazioni, diciamo, politiche a quei tempi. Oggi come oggi vediamo che in realtà proprio anche lo scontro a cui stiamo assistendo sempre di più tra la Cina e gli Stati Uniti, ad esempio, riveste da un certo punto di vista delle similitudini con quello che era il passato, ovvero anche il controllo, no, di quelle che possono essere l'influenza politica nei vari paesi, poi si gioca attraverso appunto quello che è il controllo delle rotte militari, e si utilizza anche poi quella della dimensione del commercio come elemento per far valere elementi anche appunto militari e bellici. Basta pensare a quello che è per esempio lo sforzo della Cina contrapposto a quello degli Stati Uniti per demilitarizzare, no, tutte le rotte anche marittime che vanno proprio dal mar cinese orientale fino al mar Mediterraneo, di come tutte quelle aree sono sempre più anche teatro di conflitti più o meno evidenti, più o meno velati, che poi nascondono quello che invece è anche appunto il tentativo di predominio su quelle che sono le rotte logistiche commerciali, perché come si diceva anche prima, chi è in grado di controllare le rotte logistiche, che è in grado di controllare le catene commerciali, è in grado poi anche di controllare poi i rapporti di forza. E questo è un qualcosa che poi ci porta anche al secondo argomento, che è quello delle migrazioni, nel senso che poi ovviamente quelle guerre, quei dispositivi di conflitto hanno portato poi a tutta una serie di sconvolgimenti proprio territoriali, con esodi di massa che scrivevano poi le mappe politiche dell'Asia, dell'Europa e quant'altro, così come anche alla migrazione, alla ricerca di quelle che erano le possibilità poi di cogliere benefici da quello che si stava costruendo a livello di organizzazione commerciale e tutto. E basta pensare che quello che un po' succede anche oggi, e che riveste anche su questo un elemento anche di creazione di divisioni di classe, perché basti pensare a quello che appunto poi la possibilità di stare o meno per una città, per un paese all'interno di una rotta commerciale, per le possibilità anche poi di ricchezza che si possono andare a guadagnare ad essere inclusi o inclusi in quei meccanismi di sviluppo, no? La traiettoria storica delle migrazioni interne alla Cina nel corso degli ultimi 20, 30, 40 anni è un chiaro esempio, no? Di come anche il fatto che la Cina sia diventata al centro delle rotte commerciali, della produzione globale, del nuovo impero logistico, ha portato a centinaia di milioni di persone che si spostavano a lavorare all'interno del paese in condizioni spesso anche terribili, con scioperi che hanno poi fatto anche il giro del mondo, quanta importanza, quanta durezza, che però ci mostrano come poi è di fatto un meccanismo di organizzazione logistica che produce anche dei livelli di conflitto, di classe, di disperazione, di lotta, come poi anche quelli che vediamo da un certo punto di vista su scala differente anche dalle nostre parti, per quanto riguarda anche un po' la questione qui della logistica in Emilia Romagna di cui si è parlato. E inoltre credo che l'altro elemento che emerge anche un po' da questi temi riguarda per esempio anche un tema molto, molto importante, che comunque non è mai stato, cioè è venuto magari un po' meno negli ultimi anni, ma che soprattutto nel ciclo di lotta anche in Europa tra il 2008 e il 2011 è sempre stato importante, che è la questione per esempio del debito, no? Quello che è poi anche questo controllo delle rotte logistiche, anche un modo di imporre dei livelli di dominazione anche coloniale o neocoloniale, per esempio nei confronti dei paesi che molto spesso, come per esempio per le nuove vie della seta cinesi, contraggono dei debiti per finanziare questi piani di infrastrutture che poi di fatto vanno a ricolpare magari i grandi interessi delle aziende cinesi in giro per il mondo, e allo stesso tempo quando non sono in grado di ripagarli significa qualcosa di molto preciso e di molto semplice da intuire: vuol dire austerità, vuol dire attacco alle condizioni di vita delle persone, vuol dire il fatto che per ripagare certi debiti ovviamente anche poi la vita all'interno dei paesi diventa poi sempre più difficile. La Grecia ad esempio, ed è questo un nodo anche più vicino a noi magari che ci rende anche più semplice capire certe dinamiche, con la crisi che ha avuto tra il 2008 e il 2011 ha ceduto il suo principale porto a una compagnia cinese che ora di fatto ne mantiene il controllo, ma allo stesso tempo, mi ricordo anche di aver partecipato ad alcuni seminari che discutevano anche di questi temi in passato, quando appunto si iniziava a studiare anche la questione della logistica in termini accademici maggiori, portando spesso anche poi non soltanto i capitali ma anche il modello di relazioni tra capitale e lavoro all'interno dei luoghi dove quei modelli sbarcano, quindi come appunto la presenza cinese in Cina andava a la presenza cinese in Grecia andava a ridefinire le condizioni di lavoro non soltanto nel porto che aveva acquistato ma a cascata di tutto il paese, perché andava ovviamente a costruire anche un effetto domino di un certo tipo. Quindi anche la questione del debito, anche la questione di i livelli di controllo finanziario che derivano anche da questi maxi progetti sono poi qualcosa che non vanno letti soltanto in chiave magari di analisi geopolitica o in chiave di politica estera, ma vanno letti proprio elementi che vanno a impattare sulle vite di tutti noi. E su questo, sempre per avvicinarmi un po' di più al nostro discorso, penso che abbiamo qualcosa che riguarda anche la dimensione logistica proprio sotto i nostri occhi, no? In questi mesi, in queste settimane, per esempio la questione della TAP che è tornata in maniera forte a dominare anche le cronache per quello che è stato poi dietro fronte dei 5 Stelle rispetto alla la promessa, no? di eliminare il gasdotto, ma di fatto quel gasdotto, quel meccanismo di trasporto del gas è all'interno poi di quei grandi ambiti di competizione logistica che riguardano comunque le potenze, che all'interno di appunto anche la questione dello scontro sul controllo delle rotte energetiche, piuttosto che di quello delle telecomunicazioni, piuttosto che di tanti altri elementi che fanno parte di questa organizzazione globale, hanno degli interessi in gioco di un certo tipo, no? Sappiamo che la TAP è strategica per esempio per quelli che sono gli interessi statunitensi rispetto a quello che invece è il controllo delle rotte del gas da parte della Russia e del resto d'Europa, quindi di fatto vediamo che anche su questo veramente la logistica, i livelli di potere, i livelli di controllo sui territori raggiungono poi degli elementi poi di materialità surreale che sono quelli che poi ci troviamo a contrastare anche quando diventiamo magari soggetti attivi nelle lotte. La TAP dal di Susa è lo stesso identico discorso, no? Per quanto vuol dire anche costruire meccanismi di appunto anche di mobilità più o meno ovviamente per quanto mi riguarda più discutibili rispetto ai dati reali, ma che di fatto poi ci parlano sempre più di questo meccanismo di sviluppo logistico multisfaccettato che appunto poi ha delle conseguenze dirette sulle nostre vite. Quindi appunto per andare a concludere, insomma, nell'articolo discuto un po' di questi temi in relazione alla questione della via della seta cinese, però credo che in generale anche un pregio un po' che questo numero ha è appunto anche di avere un approccio, diciamo, transdisciplinare, perché comunque la logistica è, come ho cercato anche di dire prima, una dimensione che di fatto è una chiave di lettura del potere. Il potere e i rapporti di forza sono di fatto dispiegati su una molteplicità di temi, e penso che comunque tutti quelli che sono i contributi all'interno di questo numero permettono davvero di farsi un'idea di un certo tipo. Quindi io chiuderei anche qui e lascio la parola a Sandro. ciao a tutti, grazie dell'invito, mi fa sempre piacere venire a parlare tanto del tema che ho trattato nell'articolo, tanto di qualche altra cosa, infatti spero di non lungarmi troppo, ma vorrei parlare un po' di geografia prima di affrontare il mio articolo, perché è una disciplina che sta tornando alla ribalta, quantomeno nei canali frequentati da noi insegnanti, in quanto negli ultimi anni è scomparsa, non c'è più alle scuole superiori, nei licei si fa geostoria, ovvero i ragazzi fanno storia e non fanno nulla di geografia, non per cattiva inclinazione del docente, ma perché i docenti sono quelli di storia ad insegnare, non i geografi. E negli istituti tecnici e professionali si fa sempre di meno, ormai c'è rimasta un'ora in prima e basta, e poi non ci vedono più. Io sono nell'Isola Felice dei tecnici economici, che sono l'extra ragionieri, dove i ragazzi fanno 3 ore in prima e 3 ore in seconda, quindi questo ci consente di avere un attimo un po' più di possibilità di apertura per quello che è la nostra disciplina, anche se mi tocca riscontrare, come spesso, sono proprio quelli che dovrebbero più spingere per la rivalutazione della geografia a affossarla veramente, perché cosa succede? Succede che spesso sento, o comunque leggo magari su Facebook o Instagram di altri colleghi che lamentano il fatto che la geografia in Italia è sempre più bistrattata, ed hanno ragione, però io non voglio fare un discorso corporativista, anzi voglio fare l'opposto, perché spesso sento fare dei riferimenti al fatto che in giro per l'Europa, in tutti gli istituti tecnici, la geografia viene fatta a manetta, un sacco di ore, un sacco di laboratori. Però andando a guardare, a cercare di capire quali fossero questi laboratori che venivano aperti o questi tipi di corsi che venivano seguiti, spesso si ricadeva in che cosa? In corsi veramente tecnici e che di fatto erano gestiti da tecnici e non da geografi. E il punto qual è? Il punto è che, ecco, quando dico in giro che sono un prof di geografia, tutti quanti mi dicono fantastico, mio figlio non sa che la capitale della Francia è Parigi, mio nipote non sa dove sta la Germania su una carta dell'Europa. E io penso che sì, sono cose molto importanti, però mi dimostrano perfettamente che non c'è nessuna percezione di quella che dovrebbe essere il compito di un geografo. Ovvero, io non dico ai miei studenti dove è Berlino o dove è la Germania, io gli dico perché esistono gli stati, perché esistono le capitali e perché esiste tutto questo ambaradan che è tutto il teatro della logistica, una delle punte più avanzate del capitalismo contemporaneo, e perché esiste e perché stravolge o determina in maniera clamorosa i territori in cui vivono, perché questo è il ruolo che penso che un insegnante di geografia dovrebbe avere, perché la geografia è quella scienza che dovrebbe aiutarci non a sapere cosa è presente sul territorio, ma perché è presente sul territorio, e quindi darci anche la possibilità di avere una lettura della realtà che sia chiara. Una lettura della realtà che appunto non ci faccia dire che all'Ikea vendono Billy, ma che ci faccia dire qual è la storia di Billy prima di arrivare lì sul bancone dell'Ikea. E infatti questo ciclo di lezioni che ho organizzato è legato proprio a un'idea, una volontà molto ardua e difficile di riuscire a introdurre a dei quattordicenni un tema complesso come la logistica. Possiamo dire che se loro hanno cercato di scavare nei loro articoli quello che è il campo d'analisi, io ho cercato di spargere in giro quello che anch'io ho imparato attraverso e insieme a loro in alcuni casi da tutto questo campo di ricerca, e l'ho fatto perché principalmente in queste lezioni sarò un po' didascalico, ma se non lo sarò non potrete riuscire a seguire il discorso, quindi vi chiedo scuse in anticipo, ma in queste lezioni in pratica quello che volevo fare era in parte riuscire a introdurre il concetto di logistica per fare cosa? Per scardinare almeno in parte la questione dello statocentrismo, riuscire a parlare di flussi, riuscire a spiegare che una carta degli stati non spiega niente di quello che è la situazione del pianeta Terra oggi, mentre una mappa dei flussi che non è neanche realmente realizzabile lo potrebbe spiegare molto meglio, quindi capire come un flusso si muove, prende piede, tocca terra in un punto piuttosto che un altro, era già un ottimo punto di partenza, anche per far capire come gli stati fossero relativamente legati a questo tipo di logica da scacchi che sta prendendo piede sul pianeta Terra. In secondo luogo, la cosa che mi interessava anche tirar fuori era come questa logistica e questa eliminazione del modello statocentrico avesse portato a alla creazione di nuovi confini, nuove modalità di vita, nuove norme, nuove leggi che hanno portato a cosa? Hanno portato a eliminare quell'idea per la quale io stesso ero abituato a credere, ovvero degli stati centrali e degli stati periferici, dove nello stato centrale c'era la civiltà e una vita agiata e accettabile, mentre negli stati periferici invece c'è il degrado e l'inciviltà, spesso dovuto alle popolazioni stesse che abitano in quei posti. Purtroppo questa cosa va ancora, e per fortuna ho cercato di inventarmi qualche modo per riuscire anche a discutere di questi temi a lezione, anche mettendo in evidenza come questi flussi della logistica avessero portato a cosa? A un'elisione dei diritti dei lavoratori, tanto che vivessero in Cina, tanto che vive solo qui nei pressi dell'Interporto di Bologna. E in pratica per farlo ho organizzato una breve serie di lezioni nella quale in ognuno cercherò di avvicinarmi al tema centrale. La prima, che secondo me era centrale, ma è stata senza dubbio quella che ha riscosso meno successo, era quella dove ho fatto un'analisi storica, ovvero una cronologia dell'evoluzione dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture per la gestione delle merci. E ho fatto tutto un parallelo tra quelli che erano le dimensioni del territorio e quello che era il sistema politico che organizzava tale territorio, che quindi era davanti a masse più piccole o più grandi di merci. Nella seconda e nella terza già si è attivato qualcosa in più, perché nella seconda sono andato a parlare di quelli che sono i nodi della logistica, proprio i nodi a tutti gli effetti, i punti dove le merci arrivano in porto. E dico porto proprio perché ho iniziato questa lezione facendo vedere delle foto del porto di Taros in Sardegna, non so se qualcuno ci è stato, perché è un sito archeologico fenicio molto famoso vicino Oristano, ed in pratica era geniale perché i fenici, che chiaramente come tutti sappiamo la sapevano lunga in fatto di commercio, avevano scelto questo punto per fare un porto perché era una gigantesca laguna, ma totalmente chiusa dagli scogli salvo una breve porzione di apertura. Quindi i fenici arrivavano col mare in tempesta, centravano il foro d'ingresso e poi potevano attraccare liberamente una roba che generalmente non era così facile da trovare, ragionare, capire. Loro c'erano arrivati, loro hanno fatto questa scelta, però attraverso questo passaggio cosa voglio sottolineare? Che comunque l'uomo, per quanto furbo, per quanto avanzato, per quanto attirato dalla sete di aumentare i suoi profitti, come in fin dei conti facevano i fenici, doveva sottostare ai leggi della natura. Loro hanno cercato un luogo dove potevano fare quel tipo di operazione, non l'hanno potuto creare. Poi faccio un balzo alla fine di questa lezione, e invece faccio vedere l'opposto, ovvero faccio vedere un time-lapse preso da Instagram della creazione del porto di Hong Kong, di Chek Lan Kok, che in pratica è un aeroporto costruito esclusivamente su chiatte galleggianti, ovvero non esisteva, è stata creata un'isola apposta per riuscire a produrre in quel punto un posto dove i flussi della logistica potessero toccare terra, non solo della logistica, anche l'aeroporto, un aeroporto anche civile. Comunque, qual è il nesso fra queste due cose? Il nesso è una cosa che spesso sfugge ai ragazzi, ovvero del fatto che l'uomo col tempo, in virtù del profitto, ha imparato a domesticare la natura. Il punto al quale io volevo introdurre non è tanto il fatto però che addomesticare la natura era creare un porto in un luogo dove non esisteva, ma era più legato al concetto che anche noi siamo presenti nell'ambiente naturale e anche noi veniamo sfruttati al di là di ogni possibile immaginazione per riuscire a produrre un profitto ancora più ampio. Certo, io vado a scuola, faccio lezione, non faccio assemblee o presentazioni di riviste, quindi non posso piazzarle esattamente in questi termini, però è un passaggio che spesso sfugge ai più di essere anche essi stessi vittime, partecipe di questo genere di processi, e quindi pensavo che fosse il caso di dare un'apertura. Come ho pensato di farlo? Prima di arrivare a questo breve ciclo di lezioni, avevo parlato di finanza globale, abbiamo parlato di Cina e avevo fatto vedere un paio di video che riguardavano le celeberrime ormai fabbriche cinesi, da quello con le reti antisuicidio della Foxconn, più altre amenità che li hanno colpiti, scioccati, comunque interessati, la cosa è rimasta a tutti. È rimasta abbastanza perché a un certo punto in questa nuova lezione faccio partire un video che chiaramente vedeva come protagonisti dei soggetti che lavoravano all'interno di una fabbrica e ho detto no prof, basta, operai cinesi che si ammazzano, non ce ne faccio vedere altri. E invece la sorpresa è che non partono i sottotitoli perché le voci sono tutte italiane, italianissime, perché si trattava di un video girato all'esterno della via Amazon di Piacenza e praticamente cosa succedeva? Si veniva fuori tutto questo discorso che non veniva generalmente presentato quando si comprava il videogioco, le scarpe, la felpa sopra Amazon e veniva consegnata da un corriere qualunque. Sono riuscito, insomma, ho cercato di scalfire un po' questo loro immaginario di piattezza senza alcun vissuto delle merci che hanno, facendo vedere che anche all'interno di quei magazzini che si trovano in luoghi come un paese civile e sviluppato come l'Italia, quindi non un paese periferico come il Bangladesh o altre amenità, si potevano trovare condizioni di lavoro che erano comunque estremamente disagiate, proprio parecchio. E se mi sono concentrato sul lab dell'Amazon di Piacenza è stato per una cosa molto particolare, e qui già esco dallo schema delle lezioni e vado più sulle conclusioni. Perché? Perché i ragazzi al giorno d'oggi vivono in un ambiente nel quale non gli viene presentato realmente ciò che è la realtà. si sa che la scuola serve a formare delle persone che siano pronte per il mercato del lavoro, e tutti sappiamo perfettamente qua dentro qual è il mercato del lavoro che si presenta ai ragazzi una volta usciti. Chiaramente tutto sta a nasconderlo, a farglielo vedere un po' più inzuccherato, edulcorato, l'alternanza scuola-lavoro, ti insegno un mestiere. A loro piace anche perché dicono che palle studiare sul libro, non ne posso più, meglio andare a imparare qualcosa. Addirittura, non solo questo, anche facendo un passo indietro, loro si sentono felici di andare a fare questi lavori in fabbrica che vengono presentati come fantastici, ma già i presidi li presentano fantastici prima che i ragazzi arrivino a scuola. Ho trovato questa roba agghiacciante, dei presidi dei dintorni di Piacenza, dove è collocato, non ricordo il paesino esatto, l'alba appunto di Amazon, che portano gli studenti delle scuole medie in visita ad Amazon. Perché? Perché ormai sono sorti numerosi tecnici, c'è un indirizzo ufficialmente presente in tutta Italia, che è chiamato Logistica e Trasporti, che è esclusivamente dedicato alla creazione di soggetti che siano pronti per lavorare in questi posti. Ma se voi leggete la pagina del MIUR che presenta il corso, usa delle frasi tipo verrete immessi in un settore giovane e dinamico a contatto con le grandi forze che governano il mondo. Cioè, una roba che è più fuorviante e non si può, ma è davvero agghiacciante. C'è proprio una presa in giro clamorosa da prendere a Sberri che ha fatto quel sito. Vabbè, lasciamo stare le scandescenze. Però comunque, insomma, quello di cui mi sono reso conto è che davvero all'interno del sistema scolastico c'è una presentazione di un mondo del lavoro che non è realmente quella che i ragazzi poi si troveranno ad avere davanti, e soprattutto c'è una presentazione del pianeta Terra che è ancora quello rimasto ancorato a logiche che andavano magari realmente in atto 50, 60, 100 anni fa. Quindi a maggior ragione ritengo che riuscire a piazzare una lezione del genere, per quanto non possa magari riuscire a trovare un terreno fertile, perché sono adolescenti, hanno altre cose per la testa, magari non sono così interessate da un discorso così approfondito su un tema scolastico, però comunque qualcosa sono riuscito senza dubbio a cavarlo, sia per me che per loro. Per me la cosa fondamentale è stata purtroppo constatare che durante queste lezioni non interveniva nessuno per nessun motivo. Solo che ragionandomi sul perché, considerando che erano lezioni che avevo detto chiaramente che non c'era valutazione, andare tranquilli per parlare di un tema nuovo, un po' sopra le righe, quella zero, nessuno voleva parlare, è una cosa molto rara che succedesse. Riflettendoci mi sono fatto delle domande e mi sono dato anche delle risposte che erano però legate non tanto alle lezioni che avevo messo in campo, ma un po' alla strutturazione del sistema scolastico che abbiamo oggi. Perché? Perché comunque quando andiamo a scuola, ok, io mi sono sbattuto per fare tutta questa roba con slide, video presi da Instagram, da Facebook, in modo che loro fossero più attirati piuttosto che dargli davanti il solito libro che già tanto che se lo portano dietro. Però il problema è che noi facciamo sempre a scuola delle lezioni dirette. Io vado in classe e per quanti video, slide o aneddoti personali posso tirare fuori e raccontare, comunque sono io che vengo e ti trasmetto un sapere che spero che tu possa apprendere in qualche maniera mediata dallo Spirito Santo o da qualche altra entità sovrannaturale. Però che cosa succede? Succede che i ragazzi in questo meccanismo si sentono continuamente verificati in merito a quelle che sono le nozioni che hanno appreso. Quindi loro si dicono, se io dico una stronzata adesso il prof se lo ricorda, gli metto un voto più basso anche in verifico, anche all'interrogazione, e purtroppo hanno ragione, non nel senso che io mi ricordo che quella ha detto una stupidaggine e quello vorrà fare, però è vero che si instaura questo meccanismo della continua messa a verifica di quello che uno tira fuori durante un intervento, durante un'alzata di mano, durante un qualcosa che inevitabilmente segna quello che è la tua percezione dell'alunno, e che quindi insomma è una cosa che assolutamente non positiva, ma che non è un'infamata che tiro agli altri, perché è una cosa che faccio anch'io nelle mie lezioni, me ne rendo conto perfettamente, e mi ha fatto capire una pecca gigantesca fra le mille altre che ho del mio essere professore. Però d'altro canto devo dire che ci ho tirato fuori anche qualcosa di buono, perché una cosa bella che è successa è stata che alla fine del video dell'Amazon ho fatto vedere un altro po' di esempi e ho messo un interporto di Bentivoglio. Premetto che i ragazzi prima, quando dicevo logistica, facchini, mai sentito niente, zero, buio assoluto, metto la foto degli interporti, il video là dall'alto, là ci lavora mio zio, là ci lavora mio fratello, il vicino di casa sta là, c'è sempre che la merda, su e giù. Finalmente si sono resi conto di che cos'era che succedesse nella vita del loro vicino di casa, di loro padre oppure di altri soggetti che conoscevano. Si sono resi conto di una roba che è mastodontica, che si trova sotto le porte di casa loro, che dà a loro dei benefici perché possono ordinare su Amazon roba che altrimenti non possono comprare, ma sono anche l'indotto delle loro famiglie, perché queste persone comunque campano presso l'interporto e loro sono perfettamente coscienti magari delle sofferenze, della fatica, delle delusioni che possono avere delle persone che vivono quotidianamente in questi luoghi. Tant'è vero che un alunno, avevo detto testuali parole, prof, adesso ho capito perché mio padre lavora come un cinese, perché sta cosa la fanno come in Cina, se non la fanno fare un'altra parte. E penso che il fatto che questo ragazzo abbia veramente connesso quello che era la sua realtà con quella che era la realtà che io cercavo non di proporgli, ma di dargli qualche lente per poterlo osservare un po' meglio, è stato forse, penso, la cosa che mi ha dato più soddisfazione all'interno di questo ciclo di lezioni. Poi si sa, il lavoro dell'insegnante è una roba un po' un vuoto a perdere, tu getti semi, però il campo semina sboccia 50 anni dopo che sei passato. Io spero che con queste lezioni, non dico che sono riuscito a seminare qualcosa che sicuramente crescerà, ma almeno dare un minimo d'approccio a, e qualche strumento in più per potersi confrontare con quello che sarà il futuro dei miei studenti. Grazie allora alle persone che sono intervenute, ovviamente il microfono è aperto, se qualcuno ha interventi da fare, domande, qualsiasi cosa, venga qua, gli diamo il microfono. Penso che i 4 interventi abbiano messo a fuoco molte cose, e abbiano soprattutto evidenziato come la logistica possa essere una lente per capire, interpretare il mondo di oggi, l'economia, la politica, perché la logistica è un po' il sistema circolatorio del sistema economico. Qui sta la sua potenza, ma un po' anche il suo punto debole, perché tutti ci ricordiamo, ma non ho ricordato loro prima, le lotte dei facchini sono stato uno dei momenti più alti del conflitto sociale in questi ultimi anni. E con la logistica sicuramente è una lente che ci può permettere di capire tante cose. Il conflitto sociale nella società di oggi. E altra cosa che permette di capire è la diseguaglianza sociale, perché se parliamo di logistica parliamo di IKEA, di Amazon, e da una parte ci sono i profitti importanti, i proprietari di queste aziende, e dall'altra parte ci sono i lavoratori delle aziende stesse che lavorano in condizioni di schiavitù. Poi ci permette di capire la questione dell'immigrazione, della crisi finanziaria dello Stato. Quindi penso che sia una lente molto utile per capire il mondo d'oggi. La faccio lunga se qualcuno ha qualcosa da dire. Io volevo intanto specificare un pochettino anche il significato, perché abbiamo deciso come centro di comunicazione di fare la presentazione di questo numero, che anche dai discorsi che sono venuti fuori è profondamente legato a tutta una serie di situazioni contemporanee, anche apparentemente forse più complicate da decifrare, non nell'ambito nostro, diciamo, ma al di fuori da qua, perché la grande difficoltà è forse non solo raccontare i meccanismi, ma far comprendere i meccanismi, e molto probabilmente oltre ai meccanismi del conflitto di classe, modificare dei comportamenti che dopo sono assolutamente fanno proliferare questa strutturazione del capitale. Ad esempio, noi possiamo raccontare e trovare un immediato sentimento di ripulsa nei confronti di come si lavora dentro ai magazzini di Amazon, ma dopo, nel momento finale del consumo, cioè questo meccanismo assottiglia, perché è evidentemente l'elemento a cui siamo giunti ad essere dipendenti da forme di consumo anche irrazionali, dopo non ci permette neanche di, paradossalmente, di comprendere e di sostenere quelle lotte che ci sono state in questo territorio in una maniera molto più diffusa di quanto sono state fino adesso sostenute, tant'è che abbiamo ritenuto non per pura necessità di raccontare un numero interessantissimo per le inchieste e per le varie prospettive con cui si osserva la questione della logistica, quello di innescare anche, di continuare, di tentare perlomeno di innescare una riflessione molto più diffusa, quella che una volta, con un termine desueto forse, definiva coscienza di classe, quindi al di là di chi ne era protagonista direttamente, ma anche chi riusciva a decifrarne i contorni pur non essendo dentro quei meccanismi direttamente. Non so, si è parlato per esempio del porto di Genova. A un certo punto storicamente il porto di Genova aveva prodotto una classe che ha determinato la storia di una città, i Camalli, faccio un esempio. E dopo, scorrendo anche il numero, era interessante anche la genesi della logistica come un elemento che trae origine dalla necessità militare di rifornire e di garantire una potenza ai propri eserciti molto più marcata di quello che prima era data nella tattica, nella strategia militare. Non lo so, io mi ricordo, avendo studiato, avendo letto al tempo per esempio di Hannah Arendt La banalità del male, che nel processo ad Eichmann si difese dicendo che lui era solo uno che si era occupato della logistica nel trasferimento ai campi di concentramento in giro per l'Europa. Cioè, noi ultimamente, faccio un esempio abbastanza minimo, cioè abbiamo provato a mettere su un comitato per contrastare un supermercato che stanno per aprire qui sotto il ponte di Via Libia. Cioè, voglio dire, abbiamo costantemente una relazione con questo, con un qualcosa che è molto più visibile e molto più reale di quello che può sembrare solo una strategia commerciale. Cambia completamente tutte le nostre vite, ci consuma, perché dobbiamo consumare. Quindi volevo anche contestualizzare il significato della presentazione di questo numero come centro di documentazione, sperando che questo possa essere un tema da riproporre e un ragionamento collettivo da riproporre, oltre che per le inchieste e i numeri che sono stati fatti e per gli articoli che sono assolutamente molto interessanti. Qualcun altro? Ringraziamo tutti, allora buona serata a tutti e accogliamo l'auspicio di Antonello, speriamo che questo sia un primo momento per cercare di continuare a riflettere su questi temi prossimamente. Buona serata a tutti.